Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo anno scolastico sta per aprirsi con una grave carenza che riguarda in particolare gli insegnanti di sostegno delle primarie. Mancano anche gli educatori che possono essere formati a Portogruaro, sede distaccata dell'Università di Trieste. Riciclaggio in aumento, le segnalazioni su operazioni sospette nei conti dei residenti in Friuli Venezia Giulia. Torna il pesce fresco a tavola in Adriatico con la fine del fermo pesca nel tratto di costa che va dal Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia. Evitate i bagni notturni in mare, l'area della Marina Protetta di Miramare invita alla cautela per la presenza di cubomeduse. Dopo un agosto giudicato un po' ovunque come sotto le aspettative, Lignano si gode il bel tempo di questi giorni e fa il pieno di turisti. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia, in studio Maria Spezia, Antonio Di Bartolomeo. Dunque cominciamo dal nuovo anno scolastico che sta per aprirsi con una grave carenza che riguarda in particolare gli insegnanti di sostegno delle primarie. I dettagli nel servizio. Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole. Il Ministero ha dato il via libera per assumere a tempo indeterminato 636 docenti, pari al 43% delle assunzioni di ruolo necessarie in Friuli Venezia Giulia. Eppure le nomine a ruolo effettivamente realizzate sono solo 517, pari al 35% del reale fabbisogno. Le 119 nomine che sono state autorizzate dal Ministero ma non effettuate sono quasi interamente quelle per docenti di sostegno della scuola elementare. Quanto ai supplenti con contratto annuale, quello che scadrà ad agosto 2024, ci sono ben 934 posti vacanti. Il professore Stefano Stefanel, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi ANDIS, spiega che il sostegno, specialmente alla scuola primaria, è complicato. Bisogna fare un corso formativo universitario intensivo e molti non hanno la vocazione a lavorare con i bambini disabili e quindi scelgono altri percorsi. Bisognerebbe ampliare la platea degli specializzati all'interno delle facoltà universitarie, suggerisce Stefanel, e trovare una gestione regionale del problema. Bisogna insomma agire a livello di sistema. Il problema è particolarmente sentito alla scuola elementare perché sono pochi i laureati in scienze della formazione che proseguono per il sostegno frequentando un corso di 2 anni specifico. A questo punto gli oltre 100 posti che non sono stati assegnati verranno coperti dalla figura detta MAD, messa a disposizione. Si tratta di persone che non hanno nessuna vera qualifica per insegnare in generale nessuna materia, spesso si tratta di studenti universitari ai primi anni di qualsiasi facoltà. Non hanno quindi una competenza specifica per stare accanto a dei bambini con disabilità fisiche o mentali. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste ha attivato nella sede distaccata di Portogruaro il corso di laurea per educatori sociopedagogici e per l'infanzia, figure che i dati di Legacopi indicano come carenti in regione per oltre 1000 unità. Mancano educatori in tutta la regione, una carenza drammatica secondo i numeri forniti da Legacoop che rischia di limitare l'accesso dei beneficiari ai servizi. Paolo Felice è presidente Legacoop Sociali Friuli Venezia Giulia. Gli educatori sociopedagogici sono un pilastro purtroppo invisibile ma un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare. E la carenza è assolutamente drammatica e viene certificata da un rapporto che come Legacoop Sociale abbiamo condiviso con Confcooperative che stima nel periodo 2022-2024 un fabbisogno di 800 educatori sociopedagogici, di 200 educatori nell'area dell'infanzia e di 200 educatori sociosanitari. Quindi una carenza drammatica che rischia, effettivamente già così, di limitare l'accesso dei beneficiari ai servizi, anche in Friuli Venezia Giulia. Il sistema universitario regionale cerca di rispondere a questo fabbisogno con corsi di studio dedicati. A Portogruaro, sede staccata dell'Università di Trieste, si formano educatori sociopedagogici e nei servizi dell'infanzia. Matteo Cornacchia è coordinatore del corso di studi in scienze dell'educazione per l'Università di Trieste nella sede di Portogruaro. Questo corso di laurea all'Università di Trieste ha una storia quasi trentennale in questa sede. Riusciamo in questo momento a formare circa un centinaio di educatori tra sociopedagogici e educatori di servizi d'infanzia ogni anno però evidentemente i numeri, la richiesta del mercato del lavoro in questo momento sono ancora molto alti, quindi stiamo seguendo e collaborando per quanto possiamo con il mondo dei servizi educativi e quindi con il mondo del privato sociale e del terzo settore. Cosa ti piacerebbe fare nel futuro? Sicuramente l'educatrice in servizi per l'infanzia. Che cosa ti piace di questa professione? Il fatto che si abbia molto a che fare con il contatto umano e la cura, che sono elementi fondamentali per questa professione. Porto Gruaro, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Costituito il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Venezia Giulia, questi comitati promuovono e sostengono l'attività imprenditoriale delle donne in Italia e sono parte integrante delle Camere di Commercio locali e nazionali. Hanno un ruolo determinante nell'incoraggiare la partecipazione attiva delle donne nell'economia italiana. Si consolida nel primo semestre dell'anno il trend delle segnalazioni di operazioni sospette inviate dal Friuli Venezia Giulia all'unità di informazione finanziaria di Banca Italia. L'ipotesi del riciclaggio è quella più frequente. Lo studio della Confederazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese CGA di Mestre. Le segnalazioni sospette più numerose vengono da Udine e Trieste. L'ultimo rapporto dell'Unità di Informazione Finanziaria di Banca Italia registra 440 segnalazioni da Udine, 322 da Trieste e poi incrementi maggiori rispetto al primo semestre 2022 a Pordenone, 32 segnalazioni in più, e Gorizia, 26 in più. La quasi totalità del flusso riguarda le ipotesi di riciclaggio e nell'80% circa dei casi le segnalazioni sono giunte dalle banche, dalle poste e dagli intermediari finanziari. Dati che confermano l'andamento record del 2022, quando le operazioni sospette sono state 2.426, con i maggiori incrementi a Udine, più 10,6% in un anno, e Trieste, più 8,7%, ottava in Italia per incidenza di segnalazioni in rapporto agli abitanti. Negli ultimi 10 anni le segnalazioni sono aumentate del 174%, nel 2012 erano appena 885. Le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo vengono vagliate da Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia e Autorità Giudiziaria. Al 25 giugno scorso erano 3 in Friuli Venezia Giulia le aziende confiscate alle associazioni criminali. Ed è proprio il rischio di infiltrazioni della criminalità economica nel mondo produttivo a preoccupare la CGA di Mestre, che lancia l'allarme. Se l'aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle piccole e medie imprese dovessero continuare, non è da escludere un ulteriore aumento delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa, dice Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, che individua i punti deboli della nostra regione. Le aree di confine sono quelle maggiormente a rischio e questo in qualche modo spiega le criticità di Trieste e Udine, che al contempo presentano delle infrastrutture economiche importantissime per quanto riguarda il capoluogo giuliano, il porto industriale e commerciale, mentre per quanto riguarda la provincia di Udine il passo di Tarvisio. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri di Cividale hanno trovato ieri nei campi di Bottenicco di Moimacco una piantagione di marijuana composta da oltre 1700 piante di cannabis che sono state estirpate. La piantagione era nascosta tra la vegetazione presente ai bordi dei confini tra vari campi agricoli coltivati, principalmente a mais. Un uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara, a Trieste, a seguito di una caduta da una scala da circa 2-3 metri di altezza in una casa a Doberdò del Lago. L'incidente è avvenuto ieri sera, necessario l'intervento dell'elisoccorso. Complici le belle giornate, a Lignano il turismo sembra vivere ancora sotto un segno positivo, le proiezioni per tutto il mese dovrebbero sorridere agli operatori, ne abbiamo parlato con il presidente di Confcommercio Lignano, Enrico Guerin. Come sta andando questa coda di stagione a Lignano per gli albergatori? Beh, sicuramente il meteo ci sta dando una grande mano, quindi il bel tempo di questi giorni e le temperature particolarmente gradevoli fanno sì che il flusso di clientela sia ancora molto alto. Abbiamo anche un buon numero di prenotazioni per la settimana a venire, che si stanno consolidando sempre di più. Quindi possiamo dire che sicuramente il mese di settembre fino a questo momento è soddisfacente. Un mese di settembre che ormai è quasi tipico, almeno le prime 2 settimane caratterizzate da una vera e propria coda d'estate, è possibile già pianificare anno su anno? Diciamo che abitualmente i mesi spalla sono caratterizzati da prenotazioni sottodata, però è anche vero che chi vuole un certo tipo di alloggio, di sistemazione, tende a prenotare già con largo anticipo. Che tipo di turisti vedete in questi giorni? Beh, chiaramente stanno tornando a casa le famiglie con i bambini, in quanto stanno finendo le vacanze scolastiche, stanno quindi riprendendo gli studi dalla settimana prossima e stanno venendo coppie adulte. Provenienti dai vostri mercati storici sempre? Ma diciamo che principalmente Austria, Germania, Nord-Est Italia, ma anche paesi dell'Est. Va bene anche l'extraalberghiero in questo periodo oppure comincia a esserci una piccola flessione? Diciamo che da quelle che sono le informazioni in mio possesso, anche l'extraalberghiero, quindi gli appartamenti ad uso turistico, stanno avendo un ottimo livello di occupazione. Complessivamente quindi una buona stagione? Beh, possiamo dire che i risultati non sono omogenei, ci sono state sicuramente delle aziende che hanno avuto dei risultati soddisfacenti e altre che purtroppo hanno avuto delle difficoltà. Dovremmo aspettare i numeri per capire effettivamente il risultato della località. Lignano Sabbiadoro, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E c'è del traffico legato al turismo, in particolare sembra al rientro dalla Croazia, in A4, raccordo A4 in direzione Torino, quindi verso ovest, ci sono code a causa del traffico intenso in barriera Trieste-Lisertes, sempre in questo caso in A4 ma in direzione Trieste a San Giorgio di Nogaro, tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A4 A23 ci sono pure code a causa di traffico intenso, dunque il flusso è importante sia da una parte e sia dall'altra. Sono diversi gli avvistamenti di cubomeduse nel Golfo di Trieste registrati ultimamente, soprattutto di notte, ma il contatto con loro potrebbe essere molto doloroso. Gli esperti invitano alla cautela ed evitare di immergersi in acqua dopo il tramonto. Hanno un'ombrella cubica di 3-4 centimetri e per questo vengono chiamate cubomeduse. Hanno 4 tentacoli lunghi fino a 40 centimetri e sono tra le più urticanti del Mediterraneo. Ma nell'Adriatico settentrionale la loro presenza era abbastanza sporadica, almeno fino a qualche notte fa. I biologi della riserva di Miramare, facendo immersioni notturne, ne hanno avvistate una decina, soprattutto sotto la costiera triestina, Santa Croce e Filtri, dove sono state avvistate anche da tre noti appassionati di fotografia subacquea. Roberto Valenti, che abbiamo contattato, ci ha confermato di aver incrociato durante un'immersione notturna in settimana davanti ai filtri un branco di una ventina di cubomeduse. Il direttore della riserva marina, Maurizio Spoto, ci ha spiegato che in alcuni comuni del sud Italia, quando viene notata una presenza importante di questi animali, vengono emesse le ordinanze di divieto di bagno, immersioni notturne, quando è difficile notarli, tranne se muniti di lampade o flash, specifica Antonella Zanello, responsabile mare dell'ARPA FVG. Anche la Guardia Costiera ha avvistato alcuni esemplari una settimana fa a Grado, tra Riva Bersaglieri e Porto San Vito, e i primi esemplari sono stati avvistati dall'ARPA già il 9 e il 10 agosto, ma la presenza più numerosa è stata notata all'interno dei porti di Lignano e Grado e lungo la costiera triestina, aggiunge ancora Antonella Zanello. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torna il pesce fresco a tavola in Adriatico con la fine del fermo pesca nel tratto di costa da Trieste ad Ancona, da Monfalcone a Bari, solo per citare alcune delle località interessate. Darne notizie è stata Coldiretti con Impresa Pesca nell'annunciare dunque la fine del blocco che era scattato il 29 luglio interessando le marinerie delle regioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Puglia. Si è da poco conclusa a Sedegliano l'esercitazione dei volontari della Protezione Civile Regionale a simulazione di una ricerca persona che ha coinvolto anche 21 cavalli dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche con oltre 50 rappresentanti. E a loro si sono aggiunti anche volontari della Croce Rossa di Codroipo e dell'Associazione Radio Amatori. L'iniziativa avviata alle 8 dalla frazione di San Lorenzo a cavallo e con squadra a piedi si è poi spostata in direzione Tagliamento verso la frazione di Turrida ed è stata organizzata in coincidenza dei 30 anni di fondazione dell'Associazione Giacche Verdi. 12:45, passiamo al meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 27 gradi con vento a 30 km orari da est-nord-est, dunque bora, il mare poco mosso con temperatura di 24 gradi e 5 decimi. A Gorizia 27 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 27, in area montana Tolmezzo 22 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 21, Tarvisio 20, Piancavallo 18 gradi, Sappada 20 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo e sul Monte Lussari 14, sulla costa Lignano 26 gradi e a Grado 25. La temperatura del mare in entrambe le località è di 24 gradi e mezzo. Le previsioni, oggi pomeriggio cielo sereno con temperature massime decisamente alte per la stagione, anche in quota temperature eccezionalmente miti per il periodo. Sulla costa soffierà bora moderata, anche se nelle ore centrali sulle zone occidentali potrà entrare temporaneamente la brezza dal mare. Domani cielo sereno con temperature massime in pianura decisamente alte per la stagione, anche in quota temperature ancora eccezionalmente miti per il periodo, venti a regime di brezza con un po' di borino di primo mattino a Trieste. A Casarsa della Delizia è arrivata la sesta edizione La Scuola Pasolini, che quest'anno ha richiamato 24 studiosi dell'intellettuale friulano. Sono arrivati a Casarsa dalle università di tutta Italia ed Europa i 24 partecipanti alla sesta edizione della Scuola Pasolini, l'alta formazione dedicata all'intellettuale, poeta e regista quest'anno con un focus su Pasolini e il teatro. Lisa Gasparotto è direttrice della scuola. Ci siamo interrogati molto sul manifesto per un nuovo teatro e sulla dimensione sia teorica sia pratica. Ci interessava anche capire come il teatro contemporaneo sta reagendo alla dimensione teatrale pasoliniana. La scuola è organizzata dal Centro Studi Pasolini e si tiene nella sede del centro, la Casa Museo, in cui Pasolini visse e si formò negli anni giovanili. Paolo Desogus è direttore della scuola. I ragazzi vengono da diverse destinazioni italiane ed europee. Li attira l'attualità di Pasolini, la possibilità di trovare nella sua opera delle categorie, degli strumenti per riflettere sul presente e per recuperare l'elemento artistico. Ho scoperto che è qui la cultura di questo pueblo Casarsa e ha molta forza e mi ha ispirato moltissimo per poter inviare alla mia università da Madrid e tutti questi valori. Studiare Pasolini a Casarsa significa immergersi in Pasolini, non soltanto dal punto di vista letterario ma anche dal punto di vista fisico, quindi anche un'esperienza fisica, sensoriale, attraversare gli spazi dove ha vissuto Pasolini, dove ha scritto Pasolini. In mattinata anche l'intitolazione della biblioteca civica a Nico Naldini, scrittore, poeta e cugino di Pasolini. Casarsa, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentato ieri a Trieste nell'ottantesimo anniversario della firma della resa italiana delle truppe alleate, il libro Il disonore delle armi, scritto dallo storico Roberto Spazzali, che ricostruisce quanto accaduto nel nord-est dell'Italia dall'8 settembre 1943 fino alla costituzione da parte dei nazisti della Adriatische Küstenland. Un periodo poco approfondito dagli storici e sul quale Spazzali ha provato a fare luce attraverso l'esame di documenti, alcuni dei quali inediti. Qual è il territorio che viene preso in considerazione nel libro che lei ha scritto? È un territorio molto ampio, quello corrispondente all'ottava armata, che aveva sede a Padova col generale Italo Gariboldi e che va dal Brennero fino a Fiume, con un'area molto complessa, molto articolata e molto varia. Tutto l'arco alpino, settentrionale e orientale, e tutta l'area costiera. Un'area, possiamo dire, strategica. Il fatto di tenere quest'area avrebbe significato tenere fuori al tempo stesso anche le truppe tedesche. Il cedimento invece sui valichi comportò la piena occupazione della penisola italiana. Che è quello che accade esattamente 80 anni fa. È quello che accade immediatamente dopo l'annuncio dell'armistizio, già nella notte stessa dell'8 settembre e poi 9, 10, anche se ci furono diversi episodi importantissimi, un po' dimenticati, di resistenza, tanto in Alto Adige, in Trentino, fino a Mantova addirittura, e poi soprattutto nel nostro territorio, con delle avvisaglie iniziali, perché c'erano già stati gli incidenti e delle tensioni di frontiera a Coccau, Tarvisio, nell'agosto, a fine agosto del 43 e a Piedicolle intorno al 24-25 di agosto. Ci fu un episodio particolarmente significativo? Sì, ci fu una resistenza da parte dei militari dove fu possibile. Noi siamo stati in grado, io personalmente sono stato in grado di ricostruire alcuni avvenimenti, alcuni fatti, in modo particolare degli scontri armati piuttosto robusti nell'area tra Opicina, Basovizza, Corniale, Sesana, che sono stati un po' dimenticati. Questo grazie alla consultazione di fonti inaspettate come i registri cimiteriali, che ci danno l'esatta contezza dei caduti in quei giorni, sia da parte italiana che da parte tedesca. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di musica: per la prima volta un soprano friulano si esibirà alla Carnegie Hall di New York, considerato il più ambito palcoscenico al mondo dagli appassionati di musica classica. Stiamo parlando di Fiorenza Cedulins, artista di fama internazionale, originaria di Anduins, nel Pordenonese, che il prossimo 3 dicembre sarà impegnata accanto ad altre 4 star della lirica nella prestigiosa sala da concerti americana in Callas 100, gala dedicato alla diva greca nel centenario della nascita. A dirigere l'orchestra della New York City Opera sarà il maestro Oleg Caetani. Omaggio a Ennio Morricone, il concerto benefico di Mauro Maur, che fu trombettista di Morricone dal 1985 in poi. L'incasso dell'esibizione sarà devoluto all'Associazione Italiana Epilessia. Il concerto presenterà le famose composizioni di Morricone. Si terrà a Gorizia al Teatro Verdi alle 20.45. Abbiamo intervistato Maur per chiedergli proprio un ricordo del grande Morricone. Nella sua casa di Roma, in via delle Araceli, proprio di fronte al Campidoglio, mi accolse perché aveva scritto per me un concerto, si intitola Ut. Mi telefonò per venire a prenderlo. Ci andai e entrai in questo studio, che nella sua casa aveva le chiavi in tasca, perché nessuno vi poteva entrare, neanche della famiglia. Mi fece vedere questo mio manoscritto. Io avevo 30 anni o giù di lì, e dunque per me una dedica di Ennio Morricone come concerto di tale importanza era una cosa straordinaria. In questo studio poi c'era in alto, su una parte della libreria, una tromba. E gli dico: che bello, che cos'è quella tromba là? Ah, dice, quella là me la regalò Sergio Leone quando avevamo questo successo per un pugno di dollari. E io ci feci due note e lui ebbe questi silenzi suoi. Quindi dice: bene, te la regalo. Risposi: ma non posso accettare. Bene, rispose, sempre con quel suo modo di fare. Vuol dire che te la presto per 40 anni. E io ce l'ho qui, a casa, tuttora. Tutti dicono che era un uomo molto schivo, molto severo. Certo, lo era, è vero. Però aveva un grande cuore. È una persona importante, come persona. Il compositore lo sappiamo tutti, ma chi ha avuto la fortuna come me di averlo vicino e di lavorarci per anni, gli rimangono dentro tante cose. Passiamo allo sport, basket. L'Italia chiude il mondiale all'ottavo posto, perdendo 89-85 contro la Slovenia di Luka Doncic. Da segnalare la prestazione di Tonut, che non è stata in questo caso la migliore delle sue. Comunque un buon mondiale quello del triestino, ha chiuso con 4 punti e un rimbalzo nei 17 minuti giocati. È stato il mondiale anche dell'allenatore Pozzecco, il triestino Pozzecco, che ha riportato l'Italia tra i primi 8 al mondo dopo lungo tempo, sostanzialmente dal 1998. Passiamo al calcio. Friuli Doc è stato avvistato ieri sera Roberto Pereira, il forte centrocampista argentino attualmente svincolato, a cui l'Udinese vorrebbe riconfermare il contratto scaduto al termine della scorsa stagione. Un indizio che forse le strade tra lui e il Friuli potrebbero non separarsi, almeno per ora. E si apre oggi il campionato di Serie A Gold della Pallamano Trieste, la società più titolata d'Italia. Appuntamento alle 19 al Palachiarbola contro Conversano. Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, come ogni domenica, andrà in onda la rubrica Vita nei Campi. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura lo stato di preallerta veterinaria per la peste suina africana, una nuova rubrica dedicata ai corsivi iscritti dal compianto Licio Damiani per Vita nei campi, per il bio i legumi, altrimenti chiamati la carne dei poveri. A seguire il ruolo delle fermentazioni batteriche nei pigiati, per la rubrica dei forestali inizia un nuovo spazio dedicato agli alberi monumentali e poi gli strozzapreti in una ricetta storica con ricotta e ortiche di Gianni Cosetti. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora un'informazione di servizio. Lunedì prossimo in Viale Palmanova Udine avranno inizio i lavori per la realizzazione della nuova superficie stradale. L'intervento interesserà il tratto del viale dalla Rotonda all'incrocio con via Melegnano e via Pietro di Brazzà, al cavalcavia Santi Ermacore e Fortunato, fino all'incrocio con via Patriarca Dioniso Dolfin, compreso e via Medici. I lavori inizieranno e si concluderanno venerdì 22 settembre. Sono le 12.55 minuti, 35 secondi, concludiamo questa edizione del giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Antonio Di Bartolomeo. La parte tecnica è stata curata da Mauro Cumin e Giuliano Pecorari, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro sito rai.it tgrfvg. Grazie dell'ascolto, vi diamo appuntamento a più tardi per l'edizione pomeridiana che il sabato va in onda alle 14.30. Buon proseguimento di giornata e di fine settimana. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.